Io inizio, io inizio ancora con compagne e compagne. Vai, compagne e compagne. Compagne e compagne. Io partirei da un vecchio slogan. C'eravamo, visto che tutti hanno fatto citazioni, non lo volevo fare ma lo faccio, come vecchie abitudini. Nessuno sarà libero finché tutti non saranno liberi. Questo proprio vecchissimo slogan, piuttosto semplice, che però riassume una questione centrale. Una è che le oppressioni che siamo abituati a dividere, l'omofobia, la transofobia, l'oppressione sul lavoro, tutte le oppressioni dei migranti, sono nella vita delle persone piuttosto articolate, e ogni vita e ogni persona e ogni percorso interseca in sé vari tipi di oppressioni. E quindi solo in un ambito accademico e solo per sistematizzare e poter ragionare intorno a alcune questioni che noi le separiamo e gli diamo quindi delle etichette per approfondirle. Ma poi sappiamo e ci rendiamo conto che, usciti dall'ambito accademico, le varie oppressioni incontrano la vita delle persone. Per cui, se da una parte è importante schematizzare e mettere a sistema le oppressioni, dall'altra è importante tenere a mente che quando ci relazioniamo col mondo esterno ci relazioniamo con tutta una serie di conflitti e di tensioni e di oppressioni che fanno parte, che ci raccontano di una società complessa e articolata. Dall'altro però questa cosa ci dice che è importante per un movimento riuscire a intersecare gli altri soggetti sociali e le altre oppressioni, proprio perché questo, solo insieme agli altri e solo insieme alle altre oppressioni, noi possiamo argomentare quello che all'inizio di questa giornata ci dicevamo con Porpora, ovvero che la battaglia non può essere corporativa rispetto a un dettaglio, a una singola questione, ma deve essere generale e organizzata. Per questo appunto, quando si parla e quando rivendichiamo che il movimento GLBT deve intersecare gli altri soggetti sociali e le altre battaglie, come quella degli operai, come quella degli studenti, come quella dell'acqua, non diciamo semplicemente di dover sommare le lotte perché così siamo abbastanza e possiamo portare a casa qualche risultato, ma per appunto produrre un senso un po' più profondo e probabilmente più vicino alla realtà che ci circonda di quanto non lo sarebbe solo rimanere dentro i nostri, come si chiama, dentro i nostri confini GLBT, che molto spesso sono assolutamente labili, perché ognuno di noi poi è anche studente, anche lavoratore e anche una persona che fruisce dell'acqua. È precario, sì, disoccupato. Disintegrata. Disoccupata. Il 2008. Nessuno sarà libero finché tutti non saranno liberi. Finché? Tutti non saranno liberi. Tutte anche. Il 2008, negli ultimi anni, è più o meno nel 2008, vediamo un ritorno in Europa di delle destre xenofobe e razziste. Questa cosa che si pensava, fra l'altro è anche l'anno della crisi economica. Queste due cose le possiamo rileggere in modo piuttosto semplice insieme. Ci ricordiamo tutti che dalla crisi del 29 si è usciti con il nazismo, per cui sappiamo bene che non solo in Europa ma anche in Europa tornano a soffiare venti di estrema destra xenofobi e razzisti, e che quindi c'è una parte della destra internazionale che comincia a riconnettere tutte quelle oppressioni in quell'idea, in quel progetto totalitario di controllo di tutto e di tutti. Per cui da questo noi possiamo dire che è vero che una battaglia che interseca tutte le questioni è una battaglia più profondamente di senso. E allora per questo diciamo e parliamo di welfare e di diritti, perché è evidente, per esempio, questo ne parlavamo l'altra volta anche sulle donne, ci sono grandissimi studi che dicono che le donne vengono pagate il 20% meno degli uomini, ma non perché nella singola fabbrica i contratti di lavoro alle donne, tra l'altro questa cosa è illegale, non si può fare ovviamente, i contratti di lavoro delle donne abbiano un salario inferiore a quello degli uomini, ma perché, essendo il lavoro oggetto di merce e essendo la regola della domanda offerta, ovvero a meno offerta sale il prezzo, il lavoro delle donne viene pagato meno in quanto le aziende preferiscono assumere uomini che donne. Questa cosa, soprattutto in un ambito di precarietà, dove quindi tu sei sotto ricatto permanente, è tanto più vero per la comunità GLBT. Immaginiamo tutti gli esempi in cui, per esempio, non i lavori piuttosto emancipati, ma in un banale call center in cui tu hai 3 mesi e poi ti devono rinnovare il contratto, se l'ambiente non è un ambiente assolutamente aperto, tu non dici di essere omosessuale o non dici di essere lesbica, e tantomeno la transessuale ti assumono o ti rinnovano il contratto. Questa cosa ci fa capire un punto chiave, che è evidente, e questo era un ragionamento che per fortuna circola molto spesso, è evidente che non si può scrivere per legge che l'omofobia è abolita o transfobia è abolita. Noi dobbiamo mettere in mano a chi lavora, soprattutto ai lavoratori precari, gli strumenti per combattere da sé, e questo anche nell'idea di non delega, di combattere da sé e concertare da sé il proprio potere contrattuale. Per questo dobbiamo riportare i diritti nel lavoro per la comunità LGBT. Dobbiamo avere una società in cui si possa concertare il proprio salario, la propria come si dice, condizione di lavoro, perché è evidente che questo non lo si può fare dall'alto, ma nei singoli casi. Per questo dobbiamo cominciare anche noi a ragionare di reddito, perché il reddito e quali forme di reddito e di welfare, perché il reddito può essere l'unica arma messa in mano alle persone, a tutte le persone, quindi non a qualche categoria o qualche come si dice, gruppo, ma a tutti, per poter dire vaffanculo quando ti fanno un'offerta di lavoro che è assolutamente umiliante, come si dice. E fra le cose umilianti che ci dobbiamo mettere è anche un'offerta di lavoro in cui ti chiedono di non dire che sei gay, di non dire che sei lesbica, oppure di presentarti in un modo piuttosto che in un altro. Però solo attraverso delle forme di reddito e, come si chiama, di tutela, quando il lavoro non ce l'hai, che si può dire vaffanculo a una, soprattutto come si dice, in una società dove abbiamo la disoccupazione giovanile intorno al 30%, per cui veramente vieni preso per il collo. L'unico modo di rispondere a questo, appunto, sono i diritti sul lavoro e un welfare. Ma poi in questo dobbiamo ragionare anche a quale tipo di welfare. Il welfare italiano tutti lo descrivono come un welfare familistico. In welfare familistico si intende un welfare che prende come soggetto di tutela e di diritto non la persona, ma la famiglia. Un esempio su tutti, che poi è l'ambito di cui mi sono occupato di più e mi sembra anche più chiaro, è quello del diritto allo studio, per cui le borse di studio non vengono erogate rispetto alla tua condizione, alle tue capacità o al tuo modo di stare al mondo, ma rispetto al reddito della famiglia di provenienza. Questa cosa vi fa capire come una persona che viene da una famiglia agiata, ma che se ne voglia andare dalla propria famiglia perché per esempio è omosessuale, non lo può fare perché il welfare non è tarato su di lui, ma è tarato sulla famiglia di provenienza. Questa cosa ci racconta di una società che ha impostato il welfare proprio per tenere la famiglia unita. E fra l'altro questa cosa è l'unica, la risposta di un welfare familistico è l'unica risposta che viene data invece a una destra che vuole abbattere tutti i sistemi di welfare. Per cui non solo noi dobbiamo dire no allo smantellamento del welfare, ma dobbiamo anche proporre un nuovo modello di welfare, che poi ragionavamo chiamarlo appunto individuale, personale, del singolo. Dobbiamo immaginare un welfare che tuteli la persona in quanto tale. Questo è per la società italiana piuttosto complicato. Uno, perché in Europa ci sono molti modelli, ma in Italia per esempio il modello di welfare che abbiamo ha vari anni di storia e ora, per quanto faccia acqua da tutte le parti, è l'unica cosa che abbiamo, e i rapporti di forza che oggi ci sono in campo nelle forze politiche del paese non ci permettono avanzamenti da svariati anni. Questo ce lo dobbiamo dire, cioè noi sul welfare stiamo arretrando. A oggi dire noi vogliamo rilanciare su una proposta di welfare ancora più avanti di quella che avevamo sembra quasi utopico, però dall'altra ci dobbiamo dire che o proponiamo una roba nuova o rilanciamo su quello, oppure facciamo e continuiamo a fare battaglie in difesa, e quindi battaglie in risposta a attacchi come quello che è successo con Marchione come si dice proprio ieri, e invece noi dobbiamo cominciare a fare una proposta di offensiva rispetto alle destre e rispetto a una proposta che funziona ed è il futuro sul quale, insomma, giocare anche una battaglia generazionale. E in questo appunto concludo riprendendo quello che diceva prima Porpora. Il movimento gay è cominciato con quel tacco, oltre che la rivendicazione politica, si è rotta quello che era la solitudine che circondava le persone omosessuali, che hanno capito di potersi unire e stare insieme. A oggi dirci e porci come obiettivo quello di mettere in campo una grande coalizione sociale con gli altri soggetti sociali, da una parte, e ce lo diciamo e lo dobbiamo mettere nero su bianco, è rifiutare un modello di lobby di un pezzo del movimento gay che si immagina come una lobby, dall'altra è invece quella di rifiutare un livello di movimento che immagina una concertazione con il centrodestra di queste cose, perché mi pare del tutto evidente che il centrodestra di questo paese abbia preso una posizione chiarissima, per cui le stronzate, scusate, io vorrei usare anche termini un po' più alla portata di tutti, le stronzate che negli anni scorsi si dicevano sull'apertura al centrodestra del movimento gay, a oggi semplicemente non si dà, per cui ancora una volta avevamo ragione noi, quelle erano stronzate. Dall'altra però dobbiamo immaginare noi una prospettiva e costruire una prospettiva, cioè immaginarci come un soggetto sociale e in questo responsabile coalizzato con gli altri soggetti sociali per arrivare a un Europride che possa parlare a tutti e possa dire che la libertà che conquistiamo, il movimento che mettiamo in campo, è un movimento che parla delle libertà di tutti e quindi di ciascuno, quindi individuale e per questo di tutti. Ecco, questo era il discorso.